Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Eccoci qui in diretta in questo inizio e fine settimana per rendervelo, cari ascoltatori del 24, insieme dolce e con una punta di amaro. C'era una volta a Torino, nella Torino in cui sono cresciuto, un aperitivo che usava molto, c'è ancora in realtà, anche se è legato all'idea dell'Italia degli anni 60, perché impazzava quando si faceva pubblicità solo in bianco e nero sulla Rai, il punto di amaro con mezzo di dolce, il puntemes. C'è ancora il puntemes? Non si sa se ci sia, però quando, no, dalla regia mi guarda e dice: no, questo è matto, dice che fa una trasmissione di economia, invece stanotte non deve aver dormito bene. No, però comunque questo è il puntemes del fine settimana, e quindi i compari dei conti da Belva sono qui per proporvi adesso un po' di argomenti. Vi riepiloghiamo come sempre all'inizio della puntata del sabato gli argomenti su cui intervenire. Mi raccomando, chiamateci all'800 24 00 24 in diretta telefonica e 349 238 6666 con i vostri messaggi, anche i più puntuti, perché qui intanto c'è Mario Seminerio che poi vi dà una risposta. Buongiorno Mario. Cos'è, la posta del cuore? No, sono diventato. No. Però guarda che sulla posta del cuore c'è l'evoluzione del costume dei paesi, e anche nei messaggi a noi si vede come se la gente ragiona e come invece ci considera forse talvolta noi un po' troppo polemici. Comunque, oltre Mario, che vi auguro buon sabato ed è pronto a commentare gli sms che ci mandate, fermo, ce n'è già. È il primo WhatsApp. Vai Giannino, il prossimo ministro dei 5 Stelle. Nel senso che, no, ma come? Qui c'è gente che beve già alle 10 di sabato mattina. Evidentemente hanno avuto una settimana difficile causa mercati finanziari. Causa mercati finanziari, ne parleremo. Carlo Alberto, ragazzi, ben trovati. Ecco, finalmente ti riabbiamo. Sei tornato. Legato di nuovo in studio, mentre Renato Cifarelli ci raggiungerà più tardi per telefono. Allora, di che cosa parliamo in questa trasmissione? Beh, naturalmente noi ne abbiamo di qualche numero della crisi all'inizio, come in tutte le puntate, da commentare, visto che le condizioni in cui stanno i mercati sono veramente d'allarme, non rosso, viola di più, insomma. Questo fine settimana, tra l'altro, e torneremo su questo argomento alla fine con Rita Faticoso da Pechino, ci sono le elezioni a Taiwan. Ieri sul mercato americano c'erano molti rumors incontrollati, verificheremo, ma ve li riferiamo giusto per che le autorità cinesi potrebbero approfittare di questo fine settimana delle elezioni taiwanesi per dare una botta di svalutazione, ma è solo un rumor. La realtà è che, come si vede, le perdite sono tante e tali, e gli indicatori tipo il prezzo del petrolio sono anche significativamente espressione di squilibri reali politici, geopolitici, di andamenti economici, tali da inglobare delle possibilità molto molto molto preoccupanti, e anche possibilità che potrebbero mutare la lettura delle intenzioni della politica economica italiana, del governo Renzi, eccetera eccetera, che inscena un grande scontro adesso con tutti i giornali italiani a maggioranza dalla sua parte, bisogna dirlo stamattina, tra Renzi e Juncker. La voglia oramai di dire che ci hanno rotto le scatole gli europei, la Commissione Europea, è molto forte anche nei commentatori, nei giornali italiani, cioè si dice, ma insomma, forse il punto di fondo è capire dove vogliamo andare. Non lo so, mi sembra che siamo tornati all'irredentismo finanziario, sembra di essere tornati al 1914, devo dirti la verità. Anche al 2011 temo, forse con gli stessi esiti. Forse con gli stessi esiti, però noi questo lo esamineremo. Poi abbiamo due grandi blocchi, per così dire. Il primo è dedicato a un tema di fondo che vi viene sempre ripetuto, e anche capo dello Stato ve l'ha ripetuto nella messaggio di inizio anno, cioè quello che evasione fiscale, due punti, ma se pagate tutti, cari italiani, pagherete meno. Allora, poiché noi non siamo affatto convinti di questo punto di vista, il che non significa che siamo pro evasione, anzi, però ci limitiamo a offrire in questa trasmissione qualche riflessione numerica sul fatto che i numeri sembrano dire il contrario. I numeri sembrano dire che dati ufficiali stimano che il tax gap sia in discesa, eppure le tasse continuano, le entrate, il totale delle entrate continua a salire. Quindi questa storia per la quale pagate tutti e pagherete meno non ci pare proprio vera. Comunque voi telefonateci per dirci se credete che il capo dello Stato abbia sempre comunque ragione, che questa sia la tesi giustissima, però diteci come la potete dimostrare, cioè diteci come di fronte ai 14 miliardi di presunta entrate da lotta all'evasione ufficiali questi ultimi anni, voi abbiate visto che qualche euro di quelli è andato alla restituzione di chi le tasse le pagava. Se ci avete possibilità di mostrarcelo, noi siamo qui, altrimenti no. Primo grande blocco. Secondo blocco, seguiamo cosa succede nelle banche. Perché si è rafforzato il filone di chi dice che bisogna andare alla moratoria del bail-in, abbiamo le prime norme per i criteri di rimborso di chi ci ha rimesso con le obbligazioni subordinate nelle quattro banche ristrutturate il 22 novembre, si comincia con gli anziani. Perché gli anziani? Domanda. Ma io non riesco a capirla. Hanno più patrimonio, ma perché gli anziani? Sì, veramente è quello il motivo. Vabbè, ho capito, e ne hanno di più, quindi però boh, non si sa. Avete visto che l'arbitrato dell'ANAC era una cosa per campare per qualche settimana, chi aveva dei dubbi, noi per esempio. Fin dall'inizio, ovviamente, ottiene la dimostrazione, fanno dei collegi arbitrali dove hanno bisogno di gente competente che quindi ha lavorato facendo cose simili per competente e proveniente da Banca d'Italia. Quindi, allora, questa vicenda va avanti. Sullo sfondo, una proposta di riforma di cui siamo in attesa, annunciata da Renzi da settimane, delle BCC avanzata da Federcasse, che è una presa per i fondelli. Vedremo perché. Nel frattempo, particolari dai giornali, vedete oggi cosa c'è sul Fatto Quotidiano, Banca Etruria, parla Carboni della P3, i miei incontri, tre incontri con papà Boschi. E poi perché a Veneto Banca sono stati salvati poco prima che il titolo, che è stabilito valore di libro perché non è un titolo liquido sul mercato, scendesse di un bel po', sono stati salvati in 1500. Chi sono e perché attraverso un'operazione come quella di JP Morgan? Quindi telefonateci, qualunque sia il vostro polo di riferimento o di qualunque banca di queste siate clienti, perché noi andremo avanti a rompere le scatole come il nostro, come nostra abitudine. Poi chiudiamo con Pechino e con Cifarelli su Non si può fare. Ma a questo punto chiedo a Mario, caro Alberto, in questa settimana, al netto di tutte queste vicende, se qualcos'altro vi ha colpito, fatto arrabbiare oppure vi ha fatto inneggiare per una volta all'ottimismo? No. All'ottimismo dubito, diciamo, esatto. Visti i mercati. No, ma visti i mercati, più che altro visto il lavoro che faccio, diciamo, non è che ho tanti motivi di ottimismo. No, a me spiace molto banalmente che, adesso ne parleremo, da questa vicenda verrà fuori una enorme distorsione della comunicazione e del pensiero e del discorso pubblico in questo paese. Cioè abbiamo Renzi il patriota contro Juncker l'evasore fiscale, l'alcolizzato, l'affamatore, lo sgherro dei tedeschi. Sì. Sono certo che possiamo fare di meglio di così in termini di capacità di analisi, per cui non è che sono arrabbiato, sono abbastanza così avvilito, sconsolato, eccetera, ma questo lo vediamo nel corso della puntata. Ad esempio di quello che dici tu, il titolo del Messaggero stamattina: danni all'Unione Europea dall'uomo della Merkel. Certo, assolutamente. Invece, caro Alberto, a te? Guarda, a me ha fatto specie il caso delle epurazioni dentro al Movimento 5 Stelle. Siccome ti vogliono far fare cosa, l'assessore, cos'è, il ministro adesso. Sì, adesso un po' me la prendo con te a priori. Sì, perché io rispetto molto chi comunque crea una dialettica dentro al sistema un po' ingessato dei partiti italiani. Però qui non andiamo bene. Cioè, nel momento in cui tu non hai procedure trasparenti per dare garanzie ai tuoi amministratori e rappresentanti rispetto ai processi di espulsione, non hai un processo formale e contemporaneamente, ricordo, il Movimento 5 Stelle è uno che gente che chiede l'abolizione dell'articolo 67 della nostra Costituzione, sì, che è quello che impedisce il vincolo di mandato. Quindi sommo le due cose, l'espulsione è arbitraria e senza un processo formale davanti a un giuria, a un comitato di garanzia, o comunque non ha processi trasparenti, e il vincolo di mandato viene imposto, quindi sostanzialmente i parlamentari diventerebbero dei burattini in mano poi a chi, non capisco, francamente questa cosa mi preoccupa, non va bene. Allora, le critiche ci stanno, ma i processi formali, i regolamenti, la trasparenza va richiesta anche a questa gente. Non si può fare i Robespierre e poi tenere le carte nascoste. Questa è una cosa, dal mio punto di vista, abbastanza grave, specie per chi si candida a governare la nostra capitale, perché lo sappiamo che insomma Roma è lì in ballottaggio fra il PD e 5 Stelle. No, Carlo Alberto, mi spiace, ma i 5 Stelle non hanno alcuna intenzione di prendersi il Campidoglio, perché i 5 Stelle hanno, parlando con licenza poetica, una fottuta paura che ciò accada, perché si disintegrerebbero se ciò accadesse. Ciò detto... Possono smentire i sondaggi ma che dicono che ma votando sì, ma adesso. Infatti vediamo chi presenteranno, visto che mi è stato fatto notare. Io ho detto... giocano a ciapa no. No, ma fammi dire... visto che la gente pensa che io sia anti-renziano, eccetera, ma qui non si parla di renzismo meno. Io sono, personalmente, mi fa piacere della candidatura di Roberto Giacchetti, non fosse altro che per la sua storia personale. Mi associo. Quindi per me va bene, io fossi romano, voterei per lui. Che ha esordito e dicendo, ve l'ho detto, ho paura, non lo nascondo di assolutamente sì, quindi è intellettualmente onesta questa cosa. Dopodiché io ho fatto notare, scusate, c'è una candidatura di peso dal lato del PD, aspetto che il 5 Stelle o la direzione aziendale del 5 Stelle faccia una cosa di altrettanto peso. Mettiamo qualche giovanotto di belle speranze dall'eloquio fluente. No, mi viene risposto, perché hanno altri incarichi e pertanto non possono concorrere. Queste sono emerite sciocchezze, perché voi sapete perfettamente come cambia tutto di volta in volta, da comune a comune, i criteri di selezione dei candidati da parte della direzione aziendale della Casaleggio Associati. Però ragazzi, guardate un secondo, l'Italicum è in arrivo, è congegnato per consegnare 100 capolista bloccati nelle mani della scelta del segretario del partito, e questo metodo sarà seguito nel PD tale quale da Italia Oggi e da Italia Oggi, da Movimento 5 Stelle, voglio dire. Quindi che siano da una parte Casaleggio, dall'altro Renzi, per quella legge elettorale non cambia. E sono i 100 garantiti, e tanto devono essere garantiti che nella legge elettorale consentono di potersi candidare in capilista bloccati in 10 collegi diversi, che è uno scandalo obbrobrioso che non esiste in nessun paese al mondo. Dopodiché, siccome per i sottostanti nei listoni si va con l'alternanza di genere come ordine, ma però gli eletti sono quelli con le preferenze, per i 340 che vengono assegnati, no, per chi vince o al primo o al secondo turno per governare, 100 li ha messi direttamente il segretario. Sui 240 restanti non è che il segretario non ne mette almeno la metà di quelli che poi passano con le preferenze. Quindi l'Italicum, ma Mario e Carlo Alberto, ci consegna un'Italia nel quale il meccanismo che tu hai appena criticato, quello Grillo, Casaleggio, Paco, in realtà diventa il meccanismo di fondo, sì, sì, in cui c'è l'appropriazione della politica italiana da parte di due leader. Passiamo da 20 anni di partiti personali ai prossimi 20 anni di partiti personali. O facciamo la legge non attuata, prevista in Costituzione, sia per i sindacati che per i partiti, con le garanzie interne e gli obblighi doveri su bilancio, conti economici, parte patrimoniale, sia di sindacato che di partiti, oppure rassegniamoci che questa è diventata la regola in Italia. Vedi che il baluardo del 67 della Costituzione è fondamentale, perché almeno una volta eletti ti perdono il vincolo di mandato e fanno quello che vogliono, almeno quello, fammelo difendere. Anche qua, in termini di ottimizzazione economica, io non lo toccherei, però i 325 transumanze dall'inizio di questa legislatura, che hanno interessato ben 264 tra deputati e senatori, ci dicono, caro Alberto, che il vincolo del mandato non va cambiato, va bene, ma dobbiamo impedire a chiunque cambi gruppo rispetto a quello in cui è stato eletto di poter andare in un altro gruppo, quindi non dovrà avere i soldi del gruppo e la facoltà delle risorse appropriate. Dobbiamo impedire la nascita di nuovi gruppi in Parlamento rispetto all'inizio. Ma quello si queste fa. Cose quello, con i regolamenti quei regolamenti parlamentari. Infatti io penso che forse non serve mettere mano alla legge elettorale in maniera così profonda. È vero che poi se l'esito bipartitico ultimo mi sta bene, quindi col ballottaggio eccetera, quello mi sta bene della legge elettorale, però si poteva ottenere cose davvero importanti anche in termini di controllo della spesa e di certe dinamiche malate agendo sui regolamenti senza parlamentari, e questo lo sappiamo da sempre. Siccome per cambiare i regolamenti bisogna che i partiti ne siano convinti, infatti non avviene. Attento quindi che lip service all'articolo 67, se diventa il trasformismo libero per tutti, non va neanche bene, perché io non posso, se ho votato qualcuno che voglio sapere se sta la maggioranza all'opposizione, diventa un comprabile all'asta, perché questo non va bene. No, comprabile quindi... no, però rappresenta la nazione e non rappresenta il partito. Fammi fare il liberale ottocentesco, da statuto Carlo Albertino. Quello se che posso vuoi dire. Tu, ma 325 transumanze è il record da che esiste il Parlamento italiano. Tutte verso una direzione, esattamente come quando c'era il centrodestra, gli smottamenti avvenivano nella direzione sempre della maggioranza, cioè si fanno sempre maggioranze che non avrebbero i voti in Parlamento grazie a questo meccanismo. Io preferirei il voto, questa è la verità. Ma infatti bisogna salvare capre e cavoli, cioè cavoli, bisogna salvare l'articolo 67 ed evitare queste degenerazioni patologiche trasformistiche. E si può fare, basta volerlo fare. Basta volerlo fare e basta soprattutto che invece i partiti non facciano quello che hanno appena fatto, cioè riregalare le puntate di Camera e Senato, l'aumento automatico oltre tetti salariali per tutti dal 2017. Io l'ho detto ieri, lo ripeto a questi microfoni, non voglio coinvolgere gli altri compagni di Conte della Belva. La mia opinione, cari ascoltatori, è che è venuto il momento, di fronte a violazioni di questo tipo del principio di parità e di uguaglianza tra gli stessi dipendenti pubblici, e che è un affronto a noi contribuenti, bisognerebbe dire: bene, cari signori, se voi fate così, allo scattare di nuovo della vostra facoltà autoattribuitavi dai parlamentari che decidono delle vostre retribuzioni a Camera e Senato, per l'eccesso che vi rientrerà in tasca, noi contribuenti ci autodenunciamo in pubblico e ci autoriduciamo le tasse della quota equivalente, disposti ad andare in tribunale affermando che la vostra pratica è illegittima e noi non la finanziamo. Questo io sono convinto che l'Italia ha bisogno di gesti gandhiani di questo tipo. Ci sentiamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati, riparte subito la sigletta del seminario in crisi. Una crisi, una crisi c'è sempre ogni volta. È una crisi, c'è sempre, però Mario, qui abbiamo il petrolio sotto i $29, abbiamo le borse a picco come non si vede, tutto è entrato nell'orso, tutto il guadagno del 2015 scomparso in due settimane. Da cosa vogliamo cominciare? A parte che i dati che escono in queste settimane sono di novembre e pertanto sono già fortemente obsoleti rispetto alla realtà, però io questa settimana sul mio sito fastidio.net ho segnalato un paio di cose. Intanto il dato di novembre di produzione industriale italiana è uscito male. Lo so, non dobbiamo guardare i dati mensili perché noi siamo diversi sempre. E superiori al nostro Presidente del Consiglio, però questo dato di novembre si inserisce in una tendenza europea che è stata negativa praticamente ovunque, quindi questo conferma che ci muoviamo in sincrono con il resto dell'area geografica ed economica a cui apparteniamo. Purtroppo nel mese di novembre c'è stata una contrazione anche nella produzione dei mezzi di trasporto che fino ad ora ci avevano aiutato nella ripresa. Grande traino. Attenzione, ripeto, ve lo dico da mesi, Fiat produce anche per l'export su territorio italiano. Da una frenata congiunturale globale, Fiat sarebbe costretta a comprimere i livelli di produzione sul territorio italiano, quindi avremmo un impatto moltiplicato. Tenete gli occhi aperti su questo. Altro dato, l'indicatore dei permessi di costruire per il primo semestre 2015 segnalato da Istat, e sono numeri pesantissimi sia sul residenziale che sul commerciale, cioè sulle attività economiche. Il residenziale continua ad affondare in termini di nuove unità costruite e di metri quadri costruiti, ma questo non mi stupisce perché, in un paese demograficamente molto vecchio come l'Italia, dove c'è un tasso di formazione di nuovi nuclei familiari che è ai minimi planetari, voi vi aspettate che ci sia una moltiplicazione di attività edilizie residenziali? Io francamente no. Come? No, aspetta. Adesso col Jobs Act escono tutti di casa, si riversano per strada. Io ho riletto stanotte la news del Presidente del Consiglio che ieri sera ancora una volta cita il più 97% dei mutui. Ecco, Mario. E questo mi offre lo spunto, questo mi offre lo spunto per segnalare in realtà altra statistica, il supplemento al bollettino statistico della Banca d'Italia nella sezione banche e moneta, che praticamente ci illustra che negli ultimi 12 mesi, da novembre 2015 a novembre 2014, lo stock dei mutui sui bilanci delle banche italiane è aumentato di 1 miliardo, cioè di nulla. Questo conferma quello che sto dicendo da mesi, cioè man mano che vecchi mutui vengono estinti o vengono stralciati per insolvenza o qualsivoglia altro motivo, le banche, approfittando del livello di tassi ai minimi storici e del fatto che possono reperire liquidità in maniera piuttosto agevole, concedono nuovi mutui perché il mercato del lavoro si è stabilizzato. Sapete qual è il vero dato sul credito in Italia che mi ha colpito? È quello dei prestiti personali e del credito al consumo. Ah, però, aspetta, prima di andare sul prestito al consumo e dire perché, come hai scritto, ribadiamo questa roba. Quando sentite ripetere più 97% mutui in un anno, guardate che noi lo stiamo ripetendo dal primo momento, abbiamo contestato l'ABI, abbiamo preso i numeri di Banca Italia dicendo ma scusate, ma se lo stock in essere un mese fa era meno 0,04%, adesso stiamo parlando di differenze nell'ambito dei 12 mesi di meno 0, più 0, il 97% è un dato eclatantemente falso. Chi lo usa fa pura propaganda. Chiusa parentesi. Sì. Andiamo a quello consumo. A me è quello che ha colpito. Allora, utilizzo questi microfoni per reiterare il mio appello al dottor Patuelli, presidente dell'ABI. Sì. Nel vostro bollettino mensile, siate gentili, oltre a dirci di quanto è aumentata in percentuale l'erogazione di nuovi mutui, diteci quanto è lo stock, ma tanto lo sappiamo dalla Banca d'Italia. Banca d'Italia. Ma diteci quanti sono i mutui che si sono estinti nel corso degli ultimi 12 mesi. Per rimborso o per stralcio a seguito di sofferenza e rimozione della posizione. Altrimenti, dottor Patuelli, risparmi questi numeri mirabolanti. Io so che lei deve avere, diciamo, dei meriti, deve acquisire dei punti fragola nei confronti della Presidenza del Consiglio, però se lei fa così non aiuta la ricerca della verità, la verità con la V minuscola, perché io non sono un no euro. Bravo. E non insegno a Pescara. Bravo! Ci ho detto qual è il dato vero che mi ha colpito negli stock della Banca d'Italia. Beh, il dato è che negli ultimi 12 mesi i prestiti personali a medio e lungo termine sono aumentati tra il 35 e il 57% a seconda delle durate, per un totale di 23 miliardi. Questi prestiti personali si legano in misura importante alle vendite di auto. Pertanto, per l'ennesima volta, la ripresa del mercato delle auto, quindi l'attività più in generale anche di Fiat, ma non solo di Fiat, perché non c'è solo Fiat a vendere auto in questo paese, traina con sé, oltre alla produzione industriale per gli impianti presenti in Italia, anche il credito al consumo. Quindi io non sto facendo, non voglio dire che se sia un bene o un male che il credito al consumo, i prestiti personali aumentino più del reddito disponibile. E il Presidente del Consiglio ti direbbe di sì, finalmente è finita la paura degli italiani. Può essere, però contemporaneamente aumenta anche il tasso di risparmio, per cui magari la realtà è un po' più complessa di come non appaia ai nostri piccoli occhi. Il Presidente occhi. Del Consiglio che gli italiani si indebitino per consumare piace, l'ha detto fin dal primo momento. Questo è possibile, però mi colpisce molto che il credito alle famiglie, che sta facendo crescere tutti gli aggregati creditizi italiani, compresse le auto, aumenta grazie verosimilmente alle auto. E questa è una cosa su cui bisogna riflettere. Mentre il credito alle imprese è ancora stagnante, vogliamo dirlo assolutamente. È diventato positivo come derivata seconda, però è ancora relativamente stagnante. Poi voi potete anche credere, voi inteso come diciamo l'opinione pubblica, che con una bad bank che tolga le sofferenze dai bilanci delle banche, il credito aumenta. Ricordate che il credito è fatto di offerta ma anche di domanda. Domanda, certo. Se non c'è domanda da parte delle imprese, perché le imprese non hanno domanda sostenuta e magari si limitano a investimenti di ristrutturazione, di ammodernamento tecnologico, cosa su cui comunque il super ammortamento del 140% potrà aiutare, non avremo nessun boom degli investimenti. Poi naturalmente voi potete dire che è colpa di Juncker, delle fasi lunari, delle macchie solari e dell'oroscopo, ma la realtà sta altrove. Allora, detto tutto questo, altri spunti su questa storia delle banche, noi ci terremo più avanti, ma diciamolo subito. Giornali italiani oggi, molti, quasi tutti improntati appunto alla linea del sostegno di Renzi nei confronti di Juncker, la Mogherini, tutti scrivono, oramai anche la Mogherini ha deluso il premier perché doveva fare l'italiana, insomma, nella commissione. Allora, oltre a denunciare il fatto che evidentemente tutti si dimenticano che la commissione esiste in quanto parte terza, cioè la commissione è proprio è la guardiana dei trattati, cioè tutti i governi che la contestano dicendo siete funzionari non eletti, tanto vale dire stracciamolo il trattato europeo. Ma al di là di questo, vi ricordo che siete tenuti tutti quanti da un anno e mezzo nella più totale ignoranza su in che cosa consiste in realtà, per esempio, questo articolato negoziato italiano con la Commissione europea sulla Bad Bank. Non c'è mai stato un pezzo di carta. Tutti i giornali italiani ieri hanno pubblicato la nuova versione della Bad Bank, non chiamiamola Bad Bank, leggera ed efficace. Leggera ed efficace, il veicolo che ogni banca potrà costituire con una garanzia di CDP, però la garanzia andrà alla parte Bad Bank e serve a quel punto a sostenere le missioni necessarie ad acquisire i crediti deteriorati dalla banca che se ne libera, senza spiegarvi come potrebbe mai funzionare, visto che a quel punto la banca che se ne libera con le garanzie di CDP sulla parte Bad che serve a rilevare i suoi crediti deteriorati, dovendo farlo a prezzo di mercato, comunque si trova nella condizione di avere un enorme buco nella propria capitalizzazione, che è esattamente quello che rende impossibile fare fino a questo momento la roba in banche come MPS e tante altre scassate. Tutti i giornali lo scrivono. Ma perché, Oscar, che tu insisti a parlare del prezzo di mercato? Nessuno, no, il prezzo è il mercato. Nessuno che... dei media italiani, pur sentendosi raccontare che c'è una trattativa di questa rilievo con un paese che ha 360 miliardi di somma tra crediti deteriorati, incagli e sofferenze nelle pance delle banche, da un anno e mezzo un direttore che avesse scritto: scusa signor governo, ma ci dai un pezzo di carta per capire di che cosa stai parlando e di che cosa stai trattando, visto che dici che a Bruxelles ti dicono di no e a Bruxelles dicono ma veramente voi non ci fate mai capire, ma ce lo fai capire a noi? La risposta è no, e invece tutti scriviamo e ripetiamo che però ha ragione il governo. Io quando vedrò un pezzo di carta, Carlo Alberto... No, ma io li sto vedendo i pezzi di carta, perché il primo è stato quello del 22 di novembre e valutava i crediti deteriorati al 17,6%, non mi pare, perfetto, che è già una bella botta sui bilanci delle banche. Dopodiché i primi di gennaio escono le prime diciamo vendite di mercato vero, e stiamo parlando tra il 7, il 10, l'11%. Quindi stiamo parlando di esattamente l'operazione di cifra... per 300 milioni di tranche delle BCC era l'11%. Esattamente, quindi il prezzo di mercato c'è, e non è vero che il governo può dire ma il mercato va aiutato con il nostro stimolo e siccome non nasce facciamo noi le garanzie. Il mercato c'è, voglio vedere se partono da quella cifra. Ricordo che la Commissione europea ha sempre posto un veto assoluto a un intervento di sostegno con i soldi pubblici su questa faccenda. Da qua. Quindi l'equazione non quadra assolutamente. Però leggera ed efficace, non si attacca leggera al lavoro del vostro dentista, poco colesterolo, è la nuova Bad Bank italiana a cui stiamo lavorando, altrimenti è colpa di Juncker. È colpa di Juncker. Che beve troppo. Perché il problema è, naturalmente, cari ascoltatori, senza entrare in dettagli tecnici, ma se voi prendete, vi limitate a prendere il solo monte delle sofferenze lorde, anzi prendete solo quello delle sofferenze nette, se volete, i 100 miliardi, se andate a vedere quei 100 miliardi, quindi dimentichiamo che sono 360 in realtà il totale compresi gli incassi, ma se su quei 100 miliardi fate un tasso di abbattimento di un prezzo di cessione che è intorno all'11%, che significa che ci sono 90 miliardi di valore che spariscono dalle banche italiane. Ho no? conti. Ecco. Prime 10 banche dovessimo portare il tasso di abbattimento anche solo all'80%, cioè comunque sopra il sì. più alto prezzo del mercato, non al 90, ci sono stime di diciamo un buco prima delle tasse di circa 30 miliardi e mezzo. Ecco. Quindi stiamo parlando sono le prime 10 banche. Sono le prime che 10. Naturalmente i soci delle stremate banche di questo sistema che viene dipinto come il più solido del mondo non hanno per ricapitalizzare le loro banche. Questo è il punto, se vogliamo raccontarlo ai nostri ascoltatori e a chi legge i giornali. Ma non è vero che chi non lo racconta è al servizio di un disegno di collusione tra Banca d'Italia, Consob e i governi in carica. Io la penso così. Sì, sarò un provocatore, ma la penso così. Comunque i soldi ci sono, basta convertire le obbligazioni in azioni, che è quello che succederà senza aspettare il bail-in. Esatto. Perché la recovery della nuova direttiva europea, cioè la capacità della BCE di imporre elementi di risanamento molto prima che si vada al bail-in, prevede perfettamente la conversione, prima di tutto l'abolizione di eventuali cedole, e se necessario si converte forzosamente l'obbligazione in equity, siccome ci sono 71 miliardi di obbligazioni, solo quelle subordinate, ma ce n'è abbastanza, Oscar, se no andiamo a prendere il centinaio di miliardi di obbligazioni senior. Qual è il problema? I soldi sono già lì, basta prendere atto che invece che obbligazioni diventano azioni. Eh sì, basta prendere Basta prendere atto che a quel punto però ci si dimentichi che chi ha esercitato il controllo in basso e agli equilibri di capitale fino a quel momento non lo esercita più. Vedi qual è il problema? Ah, ma certo che è quello il problema. La collusione è con quelli. Fantastico. Allora, vedi, il problema non è rinunciare alle cedole delle obbligazioni, certo, che tanto potrebbero essere cancellate lo stesso. Il problema è che la conversione sconvolge definitivamente gli assetti di potere. Esatto. O vogliamo dirlo, perché la soluzione, certo, è davanti agli occhi di tutti. La bad bank si chiama conversione delle obbligazioni in azioni. Ma non capito. A nome di chi, Patuelli, ripetendo quei dati sui mutui, si sta tentando di tenere buoni i regolatori e il governo. A nome di chi comanda nelle banche. Allora, torniamo tra un minuto e cominciamo la riflessione su: è vero che se paghiamo tutti, pagheremo meno? Della belva. Ed eccoci tornati qui con i compagni dei conti della belva, Oscar, Mario, Carlo Alberto. Ed ecco che vi salutano e andiamo appunto riascoltando il messaggio di auguri a tutti gli italiani, di speranza per 2016 che ci ha riservato il capo dello Stato. Noi vogliamo riascoltare soprattutto un passaggio, quello dedicato alle tasse. Secondo uno studio recentissimo di pochi giorni addietro, di Confindustria, nel 2015 l'evasione fiscale contributiva in Italia ammonta a 122 miliardi di euro. 122 miliardi, vuol dire 7,5 punti del prodotto interno lordo. Lo stesso studio calcola che anche soltanto dimezzando l'evasione si potrebbero creare oltre 300.000 posti di lavoro. Gli evasori danneggiano la comunità nazionale e danneggiano i cittadini onesti. Le tasse e le imposte sarebbero decisamente più basse se tutti le pagassero. Ecco, queste le parole del capo dello Stato. Io sono stato nella minoranza di coloro che fin dal primo giorno ha scritto non mi è piaciuto. Non mi importa molto, a dire la verità, che il report sia dell'ufficio studi di Confindustria. Non mi piace comunque, non mi piace la stima di quei 122 miliardi, che è molto diversa da altre stime. Non mi piace questa, la nasometria, che comunque è propria di tutti i sistemi che fanno questa stima, ma soprattutto le conclusioni che se ne tirano e che vengono utilizzate dalla politica. Alla politica piace tantissimo questo argomento, cioè poter dire, ma cari italiani, è colpa vostra se le tasse sono così alte, se pagate meno alla fine vedrete che contemporaneamente oppure subito dopo l'effetto del vostro approccio alla redenzione sarà quello di avere tasse normali come media e mediana, che non siano così significativamente più elevate di quelle dei nostri paesi concorrenti. È vero questo fatto? Allora, tentiamo di... oppure è falso ed è un argomento propagandistico che viene utilizzato, però molto popolare, ecco. Però Oscar, devo fare una lancia spezzata correttamente. Il Centro Studi di Confindustria non ha detto questo. Il Centro Studi di Confindustria ha detto che se si abbassano le tasse, allora, sì, ovviamente, se si riducono le spese e si abbassano le tasse, allora è probabile anche ridurre l'evasione. Il nesso causale era al contrario. Mi spiace, ma chi ha scritto il documento per il Presidente della Repubblica non ha neanche letto correttamente il report di Confindustria. Ciò detto, cominciamo con i nostri ospiti. Che ne dici? Allora, noi abbiamo per parlarne chi se ne è occupato, per una ragione o per l'altra, il professor Dario Stefanato, è ordinario di diritto tributario all'Università di Trieste, quindi questo per lui insomma è uno degli argomenti fondamentali di cui si occupa. Grazie di essere con noi, professor Stefanato. Buongiorno a voi. E Luciano Capone, giornalista che scrive per Il Foglio e che pregherei di ricordarci che cosa, mettendo insieme un po' di numeri, ha scritto partendo proprio da questo assioma. Vediamo di verificare se quello che ha detto il capo dello Stato sta nei numeri oppure no. Qual è la tua conclusione, Luciano? Grazie di essere con noi. Innanzitutto buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. L'affermazione che era poi quella dello studio di Confindustria era, diciamo, ipoteticamente vera, ma fattualmente falsa. Insomma, non ho fatto altro che mettere un po' di numeri in fila per vedere se negli ultimi anni le cose sono andate in questo senso. Prendendo un po' di dati, poi l'evasione è difficile da calcolare perché, come diceva Carlo Alberto, Confindustria calcola in 120 miliardi, il Ministero dell'Economia in 90 miliardi, quindi anche qui c'è una discrepanza sui numeri. Diciamo che però, in generale, secondo l'Istat, negli ultimi 5-6 anni, il sommerso, che è poi l'insieme delle attività economiche in cui ricade anche l'evasione fiscale, diminuita di un paio di punti di percentuale. E secondo il rapporto sull'evasione fiscale del 2014 del Ministero dell'Economia, il tax gap, che è l'evasione fiscale in senso stretto, ma include anche il mancato versamento di tasse per insolvenza da parte dei contribuenti, cioè i contribuenti hanno dichiarato un reddito ma non hanno i soldi per pagare le tasse. Comunque questo tax gap, che è possiamo chiamare l'evasione fiscale, si è ridotta del 2,3% dal 2001 al 2012. Quindi in generale c'è stata una riduzione dell'evasione fiscale, e anche l'Agenzia delle Entrate negli ultimi 8 anni ha sbandierato orgogliosamente i successi della lotta all'evasione, perché l'evasione fiscale è passata da 4 miliardi a 14, quindi è più che triplicata. Se se la lotta all'evasione necessariamente comportasse una riduzione delle aliquote, avremmo dovuto assistere a una pressione fiscale costante, ma più equamente distribuita. Purtroppo le cose non sono andate così, è successo l'esatto contrario, perché negli ultimi 10 anni la pressione fiscale è aumentata di 3-4 punti percentuali e la spesa pubblica è aumentata di 6 punti di PIL. Quindi vuol dire che tutta la lotta all'evasione è finita in maggiore spesa pubblica, in maggior debito pubblico e maggior pressione fiscale. Quindi è successo l'esatto contrario di quanto auspicava il Presidente della Repubblica. Quindi fino a questo momento chi ripete se pagate tutti pagherete meno, mente. Perché i numeri dicono, ripeto, non un solo euro dei costituiti negli anni fondi per la restituzione ai contribuenti di risorse ricavate aggiuntive da lotta all'evasione fiscale, i famosi 14 miliardi che ricordavi, cui è giunta la media annuale rispetto ai 4 rotti di metà degli anni 2000, non uno solo di quegli euro è mai andato ai contribuenti. Uno. Allora, su questo, perché il capo dello Stato e tutti i vertici della politica italiana continuano a ripetere questa che platealmente e fattualmente una cosa che non sta in piedi? Lo chiedo al professor Stevanato. Ma secondo me perché non vengono colti alcuni aspetti tecnici oltre che quelli numerici ed empirici che ha ricordato adesso Luciano Cappone. Cioè, il punto è questo: le tasse, le imposte non sono un debito collettivo, cioè in passato, nei secoli passati, era in aspetti così. Lo Stato fissava una cifra da riscuotere, la fissava a priori, la ripartiva tra le comunità territoriali che si dovevano occupare di recuperare i soldi dai singoli appartenenti alla comunità. Quindi erano le imposte di ripartizione. In quel caso, in quei sistemi, parliamo di secoli passati, quello che non pagava Tizio pagava Caio, perché lo Stato voleva comunque incassare la cifra predeterminata. Oggi la situazione è completamente diversa, non siamo in un sistema di imposte di ripartizione, ci sono aliquote fissate alla legge, per cui se un soggetto non paga, evade, questo non si traduce in alcun modo in un aggravio a carico degli altri, e viceversa, se un soggetto viene prima evasore, diventa invece viene ad essere accertato, il maggior gettito non provoca nessun tipo di automatico riversamento dei maggiori introiti sugli altri. Quindi questo c'è un primo motivo tecnico, è questo. Poi ce ne sono anche altri, ad esempio il fatto che il maggior gettito dell'evasione venga a confluire in quello che oggi addirittura esiste un fondo per la riduzione della pressione fiscale alimentato dagli introiti della cosiddetta lotta all'evasione. Da una parte, dal maggior gettito rispetto a un benchmark fissato l'anno precedente, fa pensare che ci sia un automatismo per cui questi maggiori introiti vengono automaticamente spalmati. No, perché in legge di stabilità regolarmente poi vengono volti a copertura di spesa. Capita anche in legge di stabilità quest'anno, esatto, per 800 milioni. È appunto questo, cioè non c'è un automatismo, occorrerebbero delle scelte politiche, delle nuove leggi, perché la materia regolata da riserva di legge, quindi occorrerebbe che una legge o più leggi dicessero quali imposte si vanno a ritoccare, quali aliquote si vanno a diminuire, quali deduzioni nuove vengono introdotte e così via. Tutto questo ovviamente non è mai avvenuto e difficilmente può avvenire. E ci sono ancora ulteriori ragioni. Il recupero del gettito è per sua natura, come dire, un fatto erratico, cioè non abbiamo alcuna garanzia che, ad esempio, se nel 2016 ci sarà un maggior recupero di evasione, questo si traduca in un analogo recupero negli anni a venire. Quindi il rischio che cos'è? Che si vada a, se veramente si facesse quello che si promette, cioè una riduzione di aliquote o l'introduzione di deduzioni, questa non ci sarebbe nessuna garanzia di poterla mantenere negli anni successivi, quindi lo Stato si troverebbe continuamente a dover fare fine tuning su aliquote, deduzioni e detrazioni, che è una cosa abbastanza impensabile. Nessun ordinamento, mi risulta, faccia una cosa del genere, anche perché poi in definitiva il livello del gettito è determinato dal livello della spesa, e questa è rigida. Abbiamo purtroppo visto negli ultimi anni le difficoltà a intervenire sui meccanismi di spesa, quindi pensare a questi automatismi, a queste promesse di riduzione, sembra tutto da dimostrare. Come si vede, oltre all'evidenza empirica che dice che è infondato, tecnicamente sarebbe, rispetto all'ordinamento attuale, inattuabile esattamente quello che i predicatori etici del fatto che quello che non funziona il fisco italiano si deve a noi contribuenti, in realtà o non sanno di cosa parlano tecnicamente, oppure mentono sapendo di mentire dal punto di vista empirico. Io sottolineo con durezza queste frasi, perché l'esempio cattivo che viene dall'alto, caro capo dello Stato, è un esempio che impregna e ispira l'intera macchina pubblica, certo, e il dibattito, certo, politico. Perché le tasse non sono un contributo, anzi il controvalore dell'erogazione dei servizi, sono un contributo etico alla purezza e alla giustizia dello Stato, caro Oscar. Comunque, questo è qua. Sentiamo cosa ne pensano poi i nostri ascoltatori. 800 24 00 24. Adesso abbiamo traffico. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in diretta ai compagni dei conti da Belva, Oscar, Mario, Carlo Alberto, e sono con noi Luciano Capone, giornalista del Foglio, e Dario Stevanato, che insegna diritto tributario all'Università di Trieste. Stiamo parlando del vero o falso che se paghiamo tutti le tasse scendono. Praticamente i numeri dicono il contrario rispetto a chi sostiene e ripete questo mantra, a cominciare dal capo dello Stato, ma è molto caro ai presidenti del Consiglio e ai ministri dell'economia. È molto caro alla sinistra, ma non solo alla sinistra, in definitiva, perché poi anche la destra l'ha ripetuto quando governava, e i numeri dicono di no, e anche per come funziona l'ordinamento sarebbe praticamente impossibile. Questa sola settimana, tanto per dire come funziona davvero l'ordinamento italiano, solo Italia Oggi, mi dispiace cari amici del gruppo, solo 24 ore, questo ci vuole un po' di autocritica, ha fatto i conti, per esempio, in che cosa è consistito nel 2015 l'effetto di una norma spacciata come norma anti-elusione IVA, cioè il criterio attraverso il quale è stato mutato il pagamento per i fornitori della pubblica amministrazione, e l'effetto di questa finta misura anti-evasione è stato un drenaggio di liquidità alle imprese fornitrici della PA, che già si devono accontentare di essere pagate quando vuole lo Stato, perché lo Stato continua ad avere 70 miliardi di euro di debito commerciale nei loro confronti, non evaso, dice la Banca d'Italia, si è tradotto in un drenaggio di liquidità a danno delle imprese fornitrici per 6 miliardi di euro. Tanto per capire le norme della lotta all'anti-evasione, che cosa producono in concreto sull'economia del nostro paese, eh? E poi vogliamo dire ancora che cosa significa canone in bolletta in arrivo, Carlo Alberto? No, solo per ricordare, appunto, che abbiamo detto altre volte, che le promesse di pagare meno, cioè facciamo 100 euro invece che 113 per pagare purché paghiamo tutti, in realtà restituiscono pieno arbitrio al governo, che l'anno prossimo non ha ancora detto quanto pagheremo, no? Che è un po' il principio. Renzi ripete sempre che scenderà ulteriormente nel 2017 rispetto diciamo, al 2016. Governo delle leggi, non nelle leggi non c'è scritto, ecco. Quello che dice Renzi, quindi non è vero che pagare tutti comporta pagare meno. Pagare tutti vuol dire poi vedrò cosa possiamo fare, ragazzi. Adesso qui cominciate a pagare, poi dopodiché vedo io. È la discrezionalità politica che continua a riaffiorare. E poi adesso non è per essere, diciamo, irrispettoso del Presidente della Repubblica, però queste sono assolute banalità. Cioè, la storia di questo paese è una storia di tassa e spendi. È una storia di aumenti di gettito che alimentano aumenti di spesa. Ora, fosse una spesa efficace ed efficiente, io ho sempre detto, beccandomi del keynesiano da destra manca, che avessimo, diciamo, un sistema, certo, come quelli scandinavi, diciamo, di welfare e quant'altro, non mi fregherebbe un accidente di avere una pressione fiscale al 55% e altrettanta spesa pubblica. Però siccome la storia di questo paese dice ben altro, e siamo ancora qua a, diciamo, raccontare la favoletta pagare tutti per pagare meno, che è palesemente non veritiera in questo paese, non so di che stiamo parlando. Non solo, prevedendo di ridurre gli investimenti e aumentare la spesa corrente, perché ricordiamo questo governo, così ha scritto nel DEF, e tu lo ricordi sempre. Questo governo continua a far crescere la spesa corrente a tassi più bassi rispetto a quello in cui cresceva fino al 2011, però continua a crescere e a ridurre gli investimenti infrastrutturali, che sarebbero la seconda argomentazione. Ha raccontato per 3 mesi la fine anno, e tutti i media italiani ci sono cascati, che c'era l'accordo con la Commissione europea per l'aumento del deficit dall'1,6 come obiettivo di medio termine nel 2016 al 2002, che poi vedrete che sarà comunque 2004. Vi hanno detto che c'era l'accordo, l'accordo non c'era, e il solo fatto che la Commissione si riservi di dire insomma dovremmo esaminare bene i vostri conti fino all'inizio della primavera, viene presentato oggi dai giornali italiani come il ringhioso botolo della Merkel, che osa dire che noi non abbiamo ragione. Secondo me stiamo tutti un po' perdendo la testa in questo paese. Sentiamo un po' come la pensano alcuni nostri ascoltatori, poi dopo vediamo anche gli sms. Mario, iniziamo con Marco da Parma. Marco, come la pensa? Salve, buongiorno a tutti. Sì. Il mio pensiero è quello che ha esposto il vostro ospite, cioè il fatto che, per esempio, per il canone RAI non è stato previsto un abbassamento del pagamento della quota in funzione di quello che si pensa di recuperare. Penso che d'evasione ci sia il 40%, io mi aspetto di pagare il 40% in meno del canone RAI. Secondo spunto di riflessione, accise della benzina, ne vogliamo parlare? A parte la motivazione delle accise, le varie guerre in Abissinia e da altre parti del mondo, il fatto che comunque continua a calare il prezzo della benzina e noi continuiamo a pagare delle accise che sono in proporzione al prezzo della benzina. Siamo arrivati oggi circa a 1 euro su 1,45 euro alla pompa allo Stato. Vi ricordo che il Presidente del Consiglio, nella conferenza stampa inizio anno, infatti, ha lanciato questa discutibilissima tesi, secondo la quale per l'economia italiana il barile che costa così poco è un dramma, mica un bene per l'Eni e per i dividendi che paga l'Eni. Certo. E per le accise. Difendetevi, cari cittadini. Io ho comprato una macchina ibrida perché va a elettricità finché può. Io quando finisce di andare a elettricità va ad accise. Scusate. Bravo. battutina. Luca da Roma, come la pensa, Luca? Buongiorno, concordo anch'io. Volevo dare 3 dati telegrafici che penso avete letto tutti. Allora, la World Bank ha stabilito che noi abbiamo un total tax rate, cioè tassazione diretta più indiretta, del 68% per una famiglia media, che è la più alta d'Europa. Allora, voi direte, vabbè, se è così alta riduciamo le tasse e pagherete meno. No, come avete detto voi prima, noi incassiamo da recupero evasione tra i 12 e i 14 miliardi annui, e esiste un fondo per il recupero della pressione fiscale che è di soli 800 milioni nel 2016 e scenderà nel 2018 a 411 milioni, non miliardi. Quindi a fronte di 14 miliardi recuperati se ne ridanno, tra virgolette, 400 milioni. Non se ne ridanno, li si mette sul fondo perché poi con legge di stabilità vengono razziati. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale è un espediente contabile, una posta contabile inventata non da Renzi ma che esisteva già da qualche anno. E il concetto fu usato anche da Prodi, se ricordate, perché Prodi usò il recupero di evasione o eventuali extragettiti altrimenti ottenuti per pagare quella che all'epoca, con lo spin mediatico dell'epoca, si definì la quattordicesima ai pensionati più poveri e meno abbienti. Per cui, discrezionalità della politica, non esiste nessun fondo salvatasse, se esiste è nella piena disponibilità discrezionale della politica per razziarlo, chiudere buchi o finanziare altra spesa aggiuntiva. Quindi è una pura finzione contabile e ideologica. Ciò detto, se il Presidente della Repubblica si fa garante e attivo promotore di un cambio culturale tale per cui tutti gli aumenti di entrata devono andare a ridurre le tasse sistematicamente, noi avremo la sua foto sopra il letto. No, addirittura, ma io mi inginocchio tutte le sere. Vedere per credere, San Mattarella a quel punto diventa. Torniamo dopo Giornale Radio. Fratelli d'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, strigiamoci a corte, il più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della belva. Eccoci qui tornati con i compari dei conti della belva, Oscar, Mario, Carlo Alberto. Siamo ancora nel blocco con vostre telefonate e opinioni al seguito del tema che ci siamo posti partendo dalle parole del capo dello Stato. È vero che pagando tutti pagheremo meno le tasse? I numeri dicono di no. Questo Dario Stevanato vi ha spiegato che oltretutto nell'ordinamento non esiste alcuna possibilità allo stato attuale di congegnarla in maniera automatica. Vi abbiamo spiegato per l'ennesima volta che il fondo a cui si attribuiscono parti dei proventi aggiuntivi da lotta all'evasione, cioè quello per la restituzione del contribuente, è a disposizione, come puntualmente avviene con i governi di tutti i colori, per poi essere veicolato e volto alla copertura di spesa aggiuntiva. I fatti sono questi. Lo Stato quindi non è vero che dicendo pagate meno pagherete tutte, chi lo dice o mente o non sa di cosa parla. Allora, qualche sms su questo, cari compari? Allora, io ne ho due che ho raccolto nella prima ora di trasmissione. Dunque, uno dice: caro Giannino Enco, buongiorno da Co, io sono Co, mi pregio far ricordare, questa è una cavità in poco, mi pregio di far ricordare a tutti che Juncker 2 anni fa aveva promesso un piano di investimenti e ricerca di 315 miliardi di euro. Caro ascoltatore, qui rispondo anch'io, certo. Questo piano, che nasceva assolutamente privo di senso perché aveva una leva di 15 o 20 volte, questo piano faceva i conti con la realtà della scarsità di risorse comunitarie, però se lei ricorda fu spinto forse nettamente dal governo Renzi come uno dei più grandi risultati del governo Renzi. Io ricordo di aver partecipato a una puntata di Ballarò con l'onorevole Bonafè che diceva: adesso arriva il piano Juncker da 315 miliardi e saremo tutti salvi. E io dissi: onorevole Bonafè, il piano Juncker non esiste. Se voi continuate a propagandare qualcosa che non esiste, vedrete che siccome il tempo è galantuomo non farete una grande figura. Quindi guardate, io non sto difendendo Juncker, no, certo. Per me Juncker, a me di Juncker non me ne può fregare di meno, ripeto, non me ne può fregare di meno. Il problema è guardare in faccia la realtà. Infatti. E non pensare che ci deve sempre essere un fottuto nemico esterno che congiura contro questo, eccoci, povero paese innocente. Perché serve come operazione per far dimenticare i problemi interni. Ma lo facciamo da secoli paese, in questa espressione geografica chiamata Italia. Sarebbe ora di piantarla. Allora, due cose. Perché l'Italia si oppone ai 3 miliardi alla Turchia per trattenere i profughi siriani? Ufficialmente, lo diceva il ministro degli esteri, perché abbiamo dei dubbi sulla ripartizione della spesa. E cioè sui nostri 300 cioè milioni. Cioè in capo al singolo paese anziché sul bilancio comunitario. Qualcun altro, che è un po' più, diciamo, malpensante, crede che questo derivi dal fatto che l'Italia sta cercando di negoziarsi la sua flessibilità. Già. Però guardate che la flessibilità italiana, il deficit aggiuntivo italiano, alla fine lo pagate voi. Lo paghiamo noi contribuenti italiani. E non è che abbiamo improvvisamente scoperto una forma di keynesismo malato tale per cui più aumenta il deficit, più questo paese parte verso le stelle con una performance economica stellare. Perché questa cosa l'hanno già fatta i governi democristiani di alcuni decenni addietro e sappiamo come è andata a finire. Per cui capisco essere patriottici, patriottismo ultimo rifugio delle canaglie, diceva qualcuno, non io necessariamente, però attenzione alla realtà. Altro punto, questo direttamente a Oscar, quindi poi mi taccio. Giannino, stai esagerando, prima gli anziani perché sono i soggetti più deboli, più soli e quindi meritano rispetto, vergognati, stiamo parlando dei rimborsi sulle banche risolte. Qui fammi dire... Però scusate, allora se vogliamo, siccome sono criteri che devono avere un fondamento, guardate, il patrimonio nelle mani degli anziani è superiore di quello di chi è più giovane. Non so se è chiaro. Posso quindi darti qualche numero? Eh no, certo, perché l'abbiamo ricordato. Il rapporto Banca Italia, andamento, certo, di redditi e patrimoni delle famiglie, che è uscito un mese fa, vai. No, ma solo per dirvi, negli ultimi 20 anni il rapporto ricchezza netta e reddito disponibile per età del capofamiglia, nel caso dei trentenni, è dimezzato, passa da circa 1 a circa 0,5. Nel caso degli ultra 65enni è raddoppiato e passa da 4 quasi a 8. Cioè, il rapporto ormai è 16 volte. Sì. Quindi, e se c'è un soggetto debole in Italia sono i giovani, allora, non gli anziani, esatto. E quindi, che hanno tutte le case, quindi, tutto il patrimonio e tutte le garanzie. Si tratta di case, mancate di rispetto. E il problema, oltretutto, vi ricordo che gli anziani, l'età media ormai è 45 anni in Italia, in questo inizio 2016, sono prevalenti come corti nei votanti. Per questo la politica, il regolatore, privilegia loro. Ma non perché ha più rispetto di loro, perché il criterio loro marginale di efficienza è quello. Però, se dobbiamo stabilire, e questo il politico faccia quello che vuole, ma dal nostro punto di vista, di osservatori, se sono criteri prioritari per l'assegnazione della valutazione, del turno di valutazione dei diritti a un rimborso con questi tre criteri che ancora non si è capito, ma insomma sono relativi alla concentrazione del patrimonio e al livello dell'investimento sul titolo subordinato, ma se uno di questi criteri è l'età, io sono obbligato a pormi il problema, no, deve avere una giustificazione reddituale patrimoniale. E quella che vediamo noi è l'opposta di quella che viene propagandata. Ecco, mi sono limitato a sollevare questo problema. Sentiamo qualche altro ascoltatore invece che ci chiama. Mario dalla provincia di Lecco. Mario. Buongiorno. Buongiorno. Quello che voglio dire io, questo canone RAI, sarebbe ora di finirla, perché qui non si tratta di non voler pagare una tassa, che è anche giusto pagare una tassa. Qui si tratta che lo Stato vuole imporre un servizio pubblico. Sì. Io non lo voglio su questo servizio pubblico. Per me... Queste nefandezze che trasmettono, io lo rifiuto. Non può, perché dovrà, come al solito, siamo in attesa, quindi non lo faccia finché non c'è questa circolare. Siamo in attesa di capire da una circolare quali saranno le modalità di autocertificazione con la quale lei chiederà di essere l'esclusione dal canone in bolletta. Ma, come sa, siccome il canone è una tassa di possesso sugli apparati di autoricezione, non potrà mai giustificarlo dicendo non voglio il servizio pubblico. Dovrà essere nella conclusione, nella condizione verificabile di non avere la televisione o aggeggi coordinati, perché voglio ripetere che è vero che non si paga sul computer, ma se nel computer o nel suo server c'è un sintonizzatore, lo dovete pagare anche sul computer. Ma, sì, ma... sarà così, quindi lei non può dirlo. L'opting out alla britannica, che la BBC offre, non si può fare, lo Stato non ce lo fa fare. Ma è un abuso questo, certo. Perché io potrei anche buttare via il televisore, se non fosse per mia moglie l'avrei già fatto, però mi privano delle informazioni. Io l'informazione la prendo da Radio 24, io pago il canone a Radio 24 perché devo pagarlo alla RAI. Non si può, perché loro si fanno il loro servizio pubblico per anticipare il countdown di mezzanotte dicendo che è per fare più audience. Il servizio pubblico deve fare più audience anticipando il conto alla rovescia del mezzanotte di qualche minuto. Non è vero, perché è mantenere un'impresa fallita. La RAI come l'Italia, noi stiamo mantenendo la RAI come abbiamo mantenuto l'Italia, perché la RAI è fallita. Oggi c'è la tecnologia, codificano il segnale, vuoi la RAI, paghi il canone, ti danno la tesserina e te lo vedi. Esatto, e non lo vuole mai altri. Ma naturalmente non avviene. È fallita e così fallirebbe. Solo che Mario, noi ce la contiamo tra noi. Di fatto poi loro continuano a fregarsene degli effetti del referendum, della privatizzazione della RAI. Noi abbiamo ricordato alla Leopold 2011 l'impegno era quello di cedere sul mercato RAI 1 e RAI 2 e di concentrare, di fare senza spot 8 reti RAI delle restanti. Impegno totalmente non mantenuto da questo governo, e la promessa era un filtro tra politica e governance dell'azienda alla BBC, dove c'è un consiglio di trustee in cui sono manager privati, pubblici, direttori di musei e così via, non uomini dei partiti, non scelti dai partiti. Qua invece hanno rafforzato la presa della politica, rafforzando quella del governo, che nomina praticamente l'amministratore delegato, e si è preso due consigli di amministrazione propri, oltre ai quattro nominati dai partiti in Parlamento. Questa è la realtà, Mario. Io non so cosa farci, ma questa è la realtà. Alfredo, dalla provincia di Roma. Alfredo. Buongiorno. Sì. Senta, allora io vorrei commentare l'affermazione che secondo cui se paghiamo tutte le tasse, paghiamo meno tasse. Mm. E in questo io sono d'accordo con lei, il fatto che non è così. Il punto è questo, che il problema di fondo dell'economia sta nella mancanza di liquidità, che non consente di fare nuovi investimenti che sono necessari per accelerare l'economia. Ora, bene, è sicuro che sia la mancanza di liquidità. Stiamo affogando del liquido. Il problema è che non sono solo soldi, se posso dire. Non ho capito, scusi. No, guardi, che lei ha detto il problema è la mancanza di liquidità. Noi siamo affogati di liquidità. Però probabilmente ci faccia capire cosa vuol dire. Cosa intende per liquidità? Sì, significa che tante persone potrebbero, cioè tante imprese, persone potrebbero produrre di più beni che possono servire comunque ad altre persone. Ma il motivo per cui non si produce di più e il motivo per cui non si acquista di più è perché non ci stanno soldi. Ma, Fredo, abbiamo, posso dirle, è un po' confuso, secondo me lei ha un po' le idee confuse, cioè le tasse sono un punto, di soldi anche quelli siamo pieni, non è questo il punto, di liquidità i mercati moderni hanno tanto da esplodere e persino in Italia per chi vuole raccogliere liquidità non, è un non problema per così dire, quindi se lei dice c'è un problema perché la domanda ai consumi italiani sono molto scesi, è verissimo, c'è un problema di diminuzione del reddito disponibile degli italiani, è verissimo. Però invece il problema è la produttività, ecco. Scusa Mario, Oscar, devo precisare, non è vero che possiamo produrre tante cose, non le sappiamo più produrre con l'efficienza e con la tempestività e con la qualità che facevamo prima, perché abbiamo smesso di investire. Allora, quello che manca non è la liquidità, sono gli investimenti, esatto. Tecnologia, adesso c'è la cassa depositi e prestiti per gli investimenti. Cioè, certo che c'è la cassa depositi e prestiti, c'è la mitica bad bank di cui non conosciamo i risultati, ma come vedremo tra poco, nelle banche misteriosamente qualcuno viene salvato quando si tratta di perdere. Sti 1.500 salvati in Veneto Banca, qualcuno ci può dire chi sono, chi li ha scelti, perché improvvisamente con un'operazione fatta da JP Morgan pochissimo prima che il titolo, valore di libro, non di mercato, quindi il liquido oramai scendesse da 39 a 30 euro, perché questi 1.500 sono stati? Ecco, questi sono i misteri delle banche italiane. Sollevare queste domande significa essere un provocatore, perché non bisogna mettere in dubbio i regolatori. Naturalmente l'inchiesta parlamentare promessavi è sparita, non si farà mai, e questa è la realtà di cui ci occuperemo per un po' tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, questa storia del, cari ascoltatori, siamo sempre compagni dei conti della Belva, questa storia dei salvati, 1.500 salvati da Veneto Banca, sulla stampa nazionale è durata pochi secondi, anzi se ne è accorto quasi nessuno, tranne chi localmente e il gruppo editoriale che aveva lanciata, che ci ha attirato sopra l'attenzione, però io la considero una conferma delle enormi, incredibili, numerosissime opacità in cui questi sistemi manageriali delle banche cosiddette locali, che poi locali non sono, nel caso di Veneto Banca non lo erano, nel caso di Popolare di Vicenza non lo erano, nel caso di Banca Etruria avrete capito benissimo che non lo erano, però questi meccanismi di totale opacità collusiva di fronte a quali i regolatori, che adesso non si può più criticare, non ci sarà la commissione parlamentare d'inchiesta, possiamo aspettare solo dalle indagini delle procure penali di sapere quello che in realtà delle connivenze e degli anni passati a scambiare atti di vigilanza segreti, perché devono essere segreti, ma sono segreti che contrastavano però col fatto che poi venivano consentiti aumenti di capitale esattamente a quei gruppi manageriali oscuri. Ecco, tutto questo ha in questa storia dei 1.500 soci salvi grazie a JP Morgan in Veneto Banca una delle conferme più plateali. Allora abbiamo con noi appunto una giornalista che ne ha scritto, che se ne è occupato, una giornalista delle testate venete del gruppo L'Espresso, Eleonora Valline, che io ringrazio di dedicarci un po' di tempo questo sabato mattina e ringrazio di quello che fa, perché lì vi posso raccontare, partendo dal presupposto che chi ascolta non ne sa nulla di questa storia. Allora, com'è questa storia dei 1.500 misteriosamente salvati, Eleonora, e grazie ancora di essere qua. Allora, buongiorno a tutti e grazie a voi di avermi contattato. Allora, la vicenda era contenuta in alcune righe della semestrale, che è anche possibile consultare direttamente online nel sito proprio della banca stessa, però non era spiegata diciamo bene, ecco, non comprensibile anche non detti ai lavori. E lo stesso amministratore delegato Cristiano Carrus l'aveva detta in conferenza stampa e anche in sede assemblea, che c'era stata questa grossa operazione con JP Morgan proprio a febbraio, e in questa operazione, che riguardava l'acquisto da parte della banca di un pacchetto di mutui, diciamo i prestiti ipotecari vitalizi, quelli per concessi agli over 65, c'era stata una contropartita su un'operazione totale di oltre 200 milioni di 35,5 milioni di azioni, ovvero a febbraio la banca, quando il fondo per riacquisto delle azioni era bloccato e quindi le vendite erano impossibili per chi voleva liquidare il proprio investimento azionario, è riuscita, grazie a JP Morgan, a questa contropartita, per 35 milioni a liquidare 1.500 soci che erano in lista e volevano monetizzare il proprio investimento azionario. La banca dichiara che su questa operazione è stata seguita la lista, cioè il primo, secondo, terzo, i soci che volevano appunto uscire dall'investimento. In realtà l'operazione non è così chiara, perché c'è una visita ispettiva della Consob, che a noi risulta essere ancora presente in banca, che sta cercando di far luce sul, leggo testualmente, processo decisionale che ha portato all'accordo di cessione acquisto concluso con JP Morgan. E tra l'altro noi abbiamo rilevato anche un'altra cosa, che JP Morgan pochi giorni prima della chiusura di questo affare, chiamiamolo così, quindi il 6 febbraio, aveva concluso un'altra operazione sempre con Veneto Banca, cioè aveva fornito le garanzie per finanziare un attore di quella cordata che aveva dovuto, avrebbe dovuto rilevare Banca Intermobiliare, che è una banca che Veneto Banca sta cercando di vendere proprio per fare patrimonio. Quell'operazione fu poi bloccata a giugno dalla BCE. Quindi Consob sta indagando anche su questa cosa. Quindi c'è un doppio filone che riguarda JP Morgan e Veneto Banca. Allora, naturalmente in un paese tra virgolette normale, questo è il mio giudizio, quando ci sono problemi tanto rilevanti come quelli di cui sono stati investiti per classe di analogia Veneto Banca e Popolare di Vicenza, quindi stiamo parlando di grandi popolari che hanno dovuto per decreto trasformare la loro natura giuridica, si erano sempre opposti a diventare una SPA e che hanno bisogno di essere tra virgolette condotte in matrimonio per i problemi che ci sono nei loro attivi patrimoniali, e quando ci si trova in condizioni che i valori a cui chi ne ha comprato il titolo per anni ha creduto, ai processi di stima attraverso i quali venivano fissati valori stellari rispetto a gli asset pesati per il rischio e la patrimonializzazione della banca e all'esposizione reale della banca che non si vedeva nei conti, quando quel meccanismo inizia a precipitare e si perde quindi valore e tutti quelli che vogliono uscire restano bloccati, e quando ci sono queste tre condizioni, ci sono tutte e tre queste condizioni, una banca come Veneto Banca, secondo me, cara Eleonora e soprattutto caro Alberto e caro Mario, è intollerabile a processi aperti, processo di fusione aperto, dibattito su quello che è avvenuto nelle quattro banche risolte, che noi a distanza di un anno, è passato un anno da questa operazione, non siamo in grado di dire agli altri soci che vogliono uscire, sono rimasti liquidi, nel frattempo ci hanno rimesso il 25% già con certezza, e quando si andrà a quotazione e matrimonio ce ne perderanno un altro 70-80. Dopo un anno noi non sappiamo dire chi in realtà è stato salvato con questo procedimento grazie a JP Morgan e, no, e chi no. Che paese è, caro Alberto, un paese che non è in grado di dirlo dopo un anno, con tutti sti regolatori e vigili che fanno finta di vigilare? Ma è un paese che ha accettato la grande tradizione delle banche popolari, che è stata importante per dare liquidità e cultura bancaria a questo paese in questo secolo, l'ha accettata come una ispirazione divina, senza discutere i meccanismi di governance che sono alla base, caro Oscar, di questa opacità no? E di questo arbitrio che è stato usato per dire a te sì e a quell'altro no, e non lo dico a nessuno, con priorità non trasparenti. E quindi qui stiamo semplicemente vedendo un esempio grave dal mio punto di vista di questa mancanza di trasparenza. Io non voglio ancora, come dire, trarre conclusioni, no, però l'assenza di trasparenza. Grazie a Eleonora Valini, gli articoli che ha scritto, qui ci sono dichiarazioni di azionisti della Veneto Banca che dice: io è da 3 anni che ho espresso il mio desiderio, quindi dovrei essere la lista, come faccio a non risultare nei criteri dei primi 1.500 che se ne vogliono andare? Cioè che questa gente che se ne voleva andare quanti decenni fa? Io devo dire che allora... Prego. No, volevo. Allora, l'amministratore delegato, quando gli è stata fatta questa domanda, ha risposto che sono state privilegiate le piccole taglie. Se si fa infatti un calcolo abbastanza spannometrico di medie e si dividono questi 35 milioni per i 1.500, si vede che la media dell'investimento, chi più chi meno, era all'incirca di 20.000 euro, se si fa proprio un calcolo matematico. E secondo me. Bisogna vedere se è una media o se la dispersione è un po' diversa, sì, sai? Infatti. No, aspetti, stavi dicendo, Eleonora, secondo te? No, poi secondo me ci sono da mettere insieme altre cose. Allora, il primo è che si tratta di febbraio 2015. L'azione in questo momento, cioè quando viene fatta l'operazione JP Morgan, vale ancora quasi 40 certo. euro. Però il bilancio del 2014 è già stato chiuso, la banca avrà una perdita di un miliardo. Chi ha fatto quella lista sapeva. Conosceva come sarebbe stato rettificato il valore patrimoniale di azioni che restano non quotate. Esatto. La banca era già stata bocciata agli stress test della BCE. Era già stata bocciata agli stress test della BCE e soprattutto da lì a due mesi, nell'assemblea di aprile, ci sarebbe stata la svalutazione che avete appena ricordato. Oggi il prezzo di recesso è stato definito 7,3 ed è il primo prezzo che abbiamo indicativo perché la quotazione di borsa non c'è ancora, sarà questa primavera. E secondo me c'è un'altra cosa che vale la pena di ricordare. Proprio a febbraio, il nostro, non nell'articolo che facevate riferimento a voi, ma in un altro articolo sempre uscito sui nostri quotidiani locali del Gruppo Espresso, proprio a febbraio Vincenzo Consoli, che ha lasciato la banca a luglio 2015, che era prima l'amministratore delegato, poi il direttore, faceva una cena a Villa Borromeo a Sarmeola, che è in provincia di Padova, e sono abbastanza famose le cene che facevano con tutti i soci forti e gli azionisti, in cui assicurava sulla solidità dell'istituto, dispensando ottimismo e rincuorava sull'investimento. Altro dato che era emerso sempre in articoli che abbiamo seguito noi, pochi mesi prima, tra settembre e ottobre, erano state liquidate due posizioni forti di azionisti, ancora con l'azione a 39,50. Uno riguarda un rimborso di 8 milioni di euro che è stato fatto al socio Bruno Vespa. Esatto. E l'altro di 2 milioni di euro è stato fatto a un dentista padovano che si chiama Paolo Rossi Chauvenet, di cui noi abbiamo dato appunto notizia, che era un ex consigliere del CDA. Esatto. Questo ecco per completare un po'. No, questo è per completare perché dei due nomi. Il secondo dice poco, se non a chi è locale ed è una personalità certo. molto rilevante localmente. Il primo dice a tutti gli italiani, invece. E naturalmente anche questo sui media nazionali è stato citato da qualcuno, ma poi insomma è meglio non indugiare troppo. Chi amministrava la banca sapeva dove stava andando, anche se poi raccontava cose diverse in pubblico. E per me è inaccettabile che dopo un anno ancora chi è lì, il liquido, e che sa che avrà una botta clamorosa in arrivo ulteriore, altro che da 39 a 30 euro o lo stesso diritto di recesso, dopo un anno si trova con i regolatori muti di fronte alle parole dette dall'amministratore delegato, di cui noi non abbiamo conferma documentale su quei 1500. Visto che però prima hanno salvato Bruno Vespa, qualcuno potrebbe pensare che in effetti qualche criterio un po' singolare c'è. Del resto, cari grazie Eleonora, però del resto, caro Alberto e caro Mario, qui ci siamo prestigiosi economisti italiani che dicono che bisogna anche fare la moratoria sul bail-in. Sì. Di questo parleremo. No, Mario, vai avanti. No, non è così, che io qua diciamo faccio l'ariete, che poi sono pure capricorno, diciamo. Però io vedo che oramai anche su questo, perché il problema è che quando Banca d'Italia ha nella memoria di attacco a testa bassa della commissione avvenuta dopo le polemiche sul decreto del 22 di novembre, ha detto che si era battuta, nessuno ne sapeva niente in Italia, perché noi formalmente non l'abbiamo saputo se non quel giorno che Banca d'Italia ha chiesto formalmente, si è battuta per un anno perché ci fosse la moratoria fino al 2018 del bail-in, l'abbiamo saputo in Parlamento. Però siccome la Banca d'Italia non è piaciuto il fatto che sui giornali italiani questa roba non ha avuto il seguito giusto, poi insieme all'ABI ha chiesto a un po' di economisti italiani di mobilitarsi. Questa è la mia tesi. Uno di questi, lo dico esplicitamente, è Luigi Guiso, che io rispetto, e allora Luigi Guiso ha iniziato a chiamare un po' di colleghi a dire: scusate, ma non si può in effetti sostenere l'eccezione italiana e dire che la richiesta di Banca Italia è fondata. Scusa, ma la domanda sorge spontanea a me che non sono nessuno, leggo i giornali e pago le tasse. Figurati tutte io. Quindi questo rispondo a quelli che dicono sì, però le tasse vanno pagate. Io le pago tutte, non ho problemi, anche troppe. Ma tu dici iniziativa delle banche italiane che ha sensibilizzato degli economisti ad argomentare. Ma scusate, perché farlo a direttiva europea approvata da due anni e a legge approvata e ratificata in Parlamento dopo un anno? Devo perché dire che anche gli economisti, come si vede a volte, arrivano un po' tardi. No, arriva tardi arrivano tardi le banche e i banchieri. Gli economisti sono come l'intendenza napoleonica, seguiranno. In un paese in cui però hanno evidentemente una libertà autovigilata. Devo dire per due cose. Uno, che chiedere la soluzione del bail-in e non di tutta la direttiva è semplicemente inaccettabile. Come dire, mandiamo in risoluzione le banche, ma senza meccanismo. E a quel punto tutto si inceppa. Ma stampiamo moneta. Secondo punto, voglio solo ricordare una cosa per il futuro riguardo a questa cosa di Veneto Banca, ma di tutte le popolari, della mancanza di trasparenza. La BCE ha stabilito che le priorità per il prossimo anno sono la qualità dei dati digitali di tutte le banche europee. Se da quest'anno le banche non puntano con estrema chiarezza sulla totale trasparenza, la BCE non può mettersi a fare ispezioni cartacee in giro per tutta Europa, pretende di avere piena trasparenza. Ci stai dando la vera ragione per la quale arriveremo in ritardo alla trasparenza digitale. Come è evidente, non piace alle banche italiane il nuovo regime di vigilanza della BCE, questo è evidente. Però sappiamo di chi sarà la colpa, di Juncker. Di Juncker. E dei tedeschi, come ovvio. Esatto. È ovvio che è quindi così. O si fa banca digitale in questo paese o non si fa più banca, perché la BCE non intende accettare. Si fa la banca all'italiana con prestigiosi economisti che sostengono che è la più sana del mondo e che non dobbiamo e che è giusto chiedere la moratoria del bail-in. E loro scrivono sul Sole 24 Ore, loro scrivono come no mantenere la licenza bancaria come non è più arbitrio della politica nazionale. Mantenere la licenza bancaria è una gentile concessione della BCE a fronte del rispetto questa settimana avete visto che la tanto annunciata riforma del sistema del BCC, stiamo parlando di 370 banche locali, del quale la stragrande maggioranza non sono nano capitalizzate ma molto cortissime oramai di capitale dopo tutti quello che è successo in questi ultimi anni. L'autoriforma proposta da Federcasse, diretta da Anzi, e tutte restano ciascuna con la propria licenza bancaria, certo, e facciamo una finta holding, certo. Facciamo una finta holding, una specie di grande parlamento. Signori, diciamolo chiaro, questa è una delle classiche proposte ha presa per il culo. Perché vuol dire, e tu, di tutti i giornali l'hanno riportata, ecco il modello verso il quale stai andando. Ma di che? Se ognuno resta con la licenza bancaria, o si pone una soglia di licenza bancaria per chi non si vuole federare, e a quel punto la licenza bancaria va in alto, cioè questo deve essere il modello francese, è così, eh? Cioè in Crédit Agricole c'è stata la federazione regione per regione, dove non sono le 20 regioni italiane, sono aggregati molto più grossi, quindi la licenza bancaria deve sparire. Attualmente la soglia è di 5 milioni di capitale per la licenza bancaria di una BCC, ma portata a 150-200 per chi non si vuole federare, ma altrimenti bisogna fare tutto unito al massimo due grandi soggetti, stiamo parlando dell'8% circa del sistema bancario. Però occhio che se e loro vogliono rimanere congreghe di ex politici, di ex presidenti di camere di commercio, di ex presidenti di Confindustria, Confartigianato, questa è la vera lobby territoriale. La holding servirà per fare risparmi sugli acquisti, procurement, certo, ufficialmente, e poi perché lì dovrebbero e dovranno finire le sofferenze cioè, gestite, non si sa bene ma la centralizzazione ha queste due motivazioni. Vediamo cosa succederà. Un commento sul giornale italiano, no, scusate, ci dispiace Azzi, però non siamo scemi, questa è una presa per il culo, non una parola, dai ragazzi. Eppure l'Italia è piena di gente che ne sa 100.000 volte più di me. Però com'è che queste cose non... Com'è, Carlo Alberto, che non si vedono sui giornali queste cose? Ma hai detto bene tu, perché ci servono 600 e briscola banche in questo paese? Creare un consenso distribuito, per cui qui non si tocca nulla. Invece se c'è una cosa da fare in questo paese per farlo ripartire, è ripensare il meccanismo del rapporto fra famiglia, banca e impresa. Allora, adesso, dopo la parte di un minuto, andiamo nell'altro, uno dei grandi punti interrogativi della spada di Damocle sulle nostre teste, cioè la Cina con Rita Fatigu. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui, tornati in diretta ai compari dei conti della belva, Oscar. Mario. Carlo Alberto. Eccoci, siamo alle prese con un grande ed enorme, lo ripeto due volte, anche tre, anche quattro, l'ombra che ci viene dalla Cina sui mercati è un'ombra che, come si vede, ve lo abbiamo detto tutte le settimane, non era vero che il problema era risolto lo scorso luglio-agosto. Non era vero che neanche si risolve facilmente con il jingle. Facciamo sentire il jingle. Hey, have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style? Ecco, sì, altro che il new style del President Xi Jinping, e cioè del tredicesimo piano quinquennale. No, qui la questione è che questo fine settimana in cui si vota Taiwan, le aspettative, non solo in questi due giorni di fine settimana, però le aspettative oramai dei mercati, le scommesse sono, ma di quanto ancora bisogna immaginarsi che nel prossimo futuro si svaluti la moneta cinese, con quali effetti rispetto alle riserve e ai capitali che escono dal sistema, con quali reali valutazioni di cosa dobbiamo aspettarci su catene di fallimenti sul mercato cinese e pulizia degli attivi, perché c'è un enorme problema di attivi marci in quel paese, quali conseguenze sull'economia reale. Nella crisi dei BRICS, nelle perdite come effetto di tutto questo delle borse in queste ultime settimane, insomma, Rita Fatiguso, che è collegata con noi, ha delle valutazioni importanti da darci. Saranno le sue valutazioni, ma per fortuna che abbiamo deciso da un po' ogni settimana di sentire. Rita, come stai? Dove sei? Beh, io sono a Pechino, mi sarebbe piaciuto andare a Taiwan, ma una serie di altre cose, leggi anche l'inaugurazione effettiva del board della banca per gli investimenti, mi hanno un po' inchiodata e quindi mi spiace, perché sono andata più volte a Taiwan giusto per capire cosa vuol dire essere nella Cina di Taiwan, che poi è la stessa Cina, che però è anche un po' Cina diversa. È Cina diversa, Cina. Non è la stessa Cina, dai. È veramente no, lo so che devi diplomaticamente sostenere la tesi del mainland, però ma fammi noi capire, no. Rita, com'è che avete una banca degli investimenti statale lì in Cina? Ecco, è una cosa che avete imparato Renzi da noi. Renzi la invidia. No, non è una banca statale, nel senso che è una banca di stati, 57, tra cui anche noi. Anche se noi non abbiamo ratificato ancora diciamo l'adesione, l'abbiamo firmata e siamo un po' indietro come sempre, però colpa dei tedeschi, una cosa interessante, sì, vabbè, se per colpa dei tedeschi, dai. E no, tornando al discorso di Taiwan, devo dire che il nostro Xi Jinping ha notevoli mal di testa in questi giorni, perché ovviamente per lui è un crucio il fatto che possa cambiare la politica di Taipei nei confronti di Pechino, quindi con un nuovo partito ormai lanciato verso la conquista del potere, che è quello all'opposizione, Partito Democratico Indipendentista, il timore che Taiwan sfugga da quel progetto che ha chiaramente in mente il presidente, cioè di farne una seconda Hong Kong, praticamente, e, a cominciare dalla politica dei visti, che assomiglia in maniera particolarmente pericolosa a quella di cittadini quando vanno di Mainland China, quando vanno a Hong Kong, e quindi vanno in una regione speciale. Ecco, questa diciamo obiettivo rischia di andare in frantumi. E però dalla sua Pechino ha la potenza economica ancora una volta, di quella militare non ne parliamo nemmeno, perché l'ha esibita sotto gli occhi allibiti dei taiwanesi durante la parata del 3 settembre, quindi questi missili che ci mettono un attimo a arrivare al di là dello stretto. Ma l'economia è molto importante, perché su questo si è basato il riavvicinamento degli ultimi 8 anni operato dal Kuomintang, partito nazionalista, e considerato alla fine molto filocinese. Ecco, zone speciali, accordi economici di vario tipo. Ecco, Taiwan non ha un'economia particolarmente florida in questo momento, quindi avere un aggancio forte con la Cina è determinante, però al tempo stesso deve difendere, come dire, la sua identità, parliamo di questo, e quindi adesso si vedrà veramente cosa succede. Dipende molto da come la futura presidente, questa donna particolarmente abile nella negoziazione, perché a sua volta in passato è stata nel team di chi ha fatto comunque questo lavoro di traghettare comunque la Taiwan in rapporto più stretto con la Cina, e che però è a capo del partito che invece proclama l'indipendenza. Quindi, Classica contraddizione asiatica, però ecco, bisogna vedere che parole usa, perché le parole sono molto importanti in Cina, proprio le espressioni che vengono usate. Qua siamo tutti a livello di cavillo nominale, cioè indipendenza piuttosto che autonomia, piuttosto che unica Cina. No, comunque, no, certo, ogni sfumatura è una cosa a cui confronto persino gli arabeschi barocchi italiani sembrano semplici, perché è davvero ma così. Me fa, no, sì, no, certo, però mi fa effetto, mi ha fatto effetto ricevere una volta una lettera da Taiwan con su il francobollo Republic of China. Fa effetto, ma come no? Ti ha fatto effetto? Cioè, io abito qua e la Cina ma per come la penso io è vero, è l'unica repubblica di Cina che io riconosco. Infatti, per me la storia è quella là, però scusi, quindi, non è un questi caso. Altri sono degli usurpatori, ma tu sai che sono dei sanguinari che, tiranni comunisti. No, dicono che le stradine della vecchia Taiwan sono labirintiche. No, sono strette abbastanza a non fare entrare i tank. È così, non è che dicono, no, dicono, stai raccontando le cose come stanno. Guarda che mentre qua abbiamo tutti i titoli di tutti i giornali su questa guerra tra Roma e Bruxelles, ridicola. Cioè, l'apertura del Financial Times fine settimana e Becchino innalza nel mare l'attività militare rispetto agli Stati Uniti. Sempre. No, il solito missile sparato nel canale. Però sempre. Fino a questo momento non l'hanno avuto, perché non vogliono intimorire il risultato. Quindi è tutto da vedere, tutto da vedere. Senti, ma le disperate misure degli ultimi giorni con le nuove iniezioni di liquidità, mercati, acquisti, eccetera, c'è qualcosa di nuovo? Tu ti aspetti sta svalutazione? Ma la svalutazione è ormai abbastanza irreversibile e non per tornare a Taiwan, il fatto che possa esserci un risultato negativo, sapete quanto sia influente anche la politica sull'economia, potrebbe accelerare un ulteriore deprezzamento dello yuan, però questo va anche, bisogna imparare a convivere anche con l'orso in borsa, perché è inutile spaventarsi tutte le volte con questo 6%, perché sono due cose molto collegate, per cui i mercati non vanno solo per crescere. Brava Rita, perché questo è un processo di grande educazione finanziaria del mercato cinese, il quale non ha mai capito che cos'è una, come dire, un ciclo, e finalmente adesso ma soprattutto ha perso 10 anni con la precedente, diciamo, nomenclatura. 10 anni sulla storia, sull'economia e sulle riforme, perché viaggiava col vento in poppa della due cifre, quindi loro non si sono mai premuniti i predecessori. Adesso la grana è tutta del presidente Xi Jinping, e purtroppo è ubicomoda. È sempre così. E poi trattandosi di una borsa che è sopravvalutata, esatto, secondo ogni metrica, anche ammettendo che, diciamo, i dati siano correttamente riportati, il peso della manifattura, della tecnologia, eccetera, se si guardano i multipli di Shenzhen, che è comunque la borsa tecnologica, visto dove sta evolvendo la manifattura cinese, non si potrà che avere un solo esito, esatto, cioè che quella borsa si sgonfierà in maniera sostanziale nei prossimi mesi. È così. Il problema è la maniera per pilotare tutto questo, per così dire. Cioè per assecondare una discesa e per non tentare di impedirla con delle regole di blocco, che quello significa semplicemente sfidare il mercato, e a quel punto la discesa diventa più precipitosa e meno ordinata. Avendo un ma occhio... guarda, le voci che ci sono di cambio ai vertici, anche dell'intoccabile governatore People's Bank of China, la settimana scorsa avevo raccontato che anche traballa la poltrona del capo della Consob cinese, cioè indicano anche che questo diciamo cupola difficilmente riesce a gestire tutto, come dire, senza a gestire danni. Tutto. Vabbè, e pensate che Vegas. Adesso ci sarà le due sessioni del Parlamento a marzo, che dovranno approvare il famoso piano quinquennale, e quindi anche il numerino, che sarebbe poi, non so, 7%, 6.5, che governerà appunto il benchmark della crescita. Sinceramente è divertente star qui anche per questo, vediamo. We will see. Grazie intanto a Rita Fatiguso, noi torniamo per sabato prossimo, mi raccomando, non perdere troppo tempo con i cicisbei cinesi, perché io so che di queste tue attività, invece non perdere troppo tempo su questo, pensa a noi, cioè, respira profondamente la purissima aria di Pechino. Mamma mia, povera te. E tra un minuto torniamo, perché ci abbiamo il nostro Renato Cifarelli, non si può fare. Della belva. Ed eccoci tornati qui in diretta con i compagni di Conti la Belva, Oscar, Mario, Carlo Alberto. E si è aggregato finalmente anche da fuori, perché oggi vado a lavorare, il nostro Renato Cifarelli. Ciao Renato, come stai? Buongiorno, io sto bene, voi vi sento belli vispi. Ma oggi, siamo belli vispi perché abbiamo, ci siamo occupati di banche e tasse, figurati. Cioè, sì, proprio, no, ho avuto occasione di ascoltarvi. Minoranza quindi assoluta su tutto, per così dire. Visto che l'Italia oggi trionfalmente trionfa su questo nano botolo, servo dei tedeschi, che si chiama Juncker, noi diciamo, boh, ma i fatti qua com'è che... Però, caro Renato, oramai vince. Posso aggregarmi a quello che ha detto Mario all'inizio, e anch'io non sopporto la cosa tutta italiana di poi passare alle offese personali quando invece si parla di questioni istituzionali. Vabbè, ma comunque, le colpe dei guai italiani sono tutte fuori, come è noto, però. Sì, il nostro. Che esempi vogliamo fare? Dai. Della nuova legge sugli appalti, che è stata strombazzata sui giornali questa settimana, e che contiene un paio di cose positive, perché tanto per non far sempre i gufi dobbiamo anche ogni tanto, certo, quando ci sono le cose positive, dirle. E le due cose più positive secondo me sono che non vale più solo il massimo ribasso, che è una cosa che ad oggi ha portato spesso dei lavori di pessima qualità, perché far lavorare le aziende col massimo ribasso vuol dire farle lavorare alla massima economia e quindi fare le cose fatte molto male. E poi che c'è la chiarezza sugli appalti, cioè scusate, sui subappalti. Allora, purtroppo per i keynesiani, che in Italia hanno veramente tante possibilità. Pronto? Sì, siamo qua. Sì, ah no, sì, no, non scusa, ma col telefono è un disastro. Allora, purtroppo per loro volevo segnalare però che gli appalti negli ultimi anni sono in fortissimo diminuzione, perché sono 26 miliardi, quindi meno 30% rispetto a 2010, mentre sono in aumento i servizi, perché quelli lì sono quelli che insomma si riesce a governare un po' meglio, e il grosso è affidato a gare senza evidenza pubblica, in modo che così gli amici degli amichetti possono trovare qualche appalto con cui lavorare. La nuova legge cerca di correggere tutte queste strutture. Le storture del fatto appunto che ci sono gli appalti senza evidenza pubblica. Però volevo segnalare, così nel nostro non si può fare, nel nostro andare a vedere come poi funzionano le cose, che nel frattempo i comuni si stanno attrezzando molto bene, perché ho notato che c'è un grossissimo movimento nelle società di servizi locali, quelle che dovevano chiudere, sai, le 7000 sì, società eccetera eccetera, che sono controllate dal comune, il tutto perché queste società qua sono in house, possono essere assegnatarie di appalti senza particolari grossi problemi. E quindi da un lato facciamo la legge sugli appalti, ma dall'altro avevamo detto che chiudevamo tutte le controllate locali, che sappiamo bene come funzionano, e contemporaneamente i comuni invece stanno incrementando le quote, anche i comuni che ne erano fuori stanno comprando quote delle piccole società di servizi locali per poter affidare i servizi in house. Ecco. Così, e io tutta la questione degli appalti. Ti ringrazio Renato, in particolare non solo per il merito di questa tua osservazione, ma perché ci lancia un ponte verso la trasmissione della settimana prossima. I primi 10 decreti attuativi della riforma Madia, uno di questi 10 è relativo proprio agli interventi sulle controllate e partecipate centrali e locali, non sono andati nel Consiglio dei Ministri in cui dovevano essere approvati, cioè quello di ieri, perché se no ne avremmo parlato oggi. Adesso è previsto un Consiglio dei Ministri per la settimana prossima, orientativamente o mercoledì sera, nella e-news di stanotte il Presidente del Consiglio dice mercoledì tardo pomeriggio sera, o al massimo venerdì, e noi ne parleremo la settimana prossima proprio su queste controllate partecipate, perché il testo del decreto, io ce l'ho in mano come tutti i colleghi che si occupano di questa cosa, e che ha fatto scrivere ai giornali che la grande cosa si accentra tutto a Palazzo Chigi, il MEF non era d'accordo, si accentra perché si nominerebbe un nuovo organismo di vigilanza di cui non c'era nessun bisogno. Vabbè, ma troviamo comunque Cantone, no? Ecco, no, il nuovo organismo di vigilanza è a Palazzo Chigi apposta per mettere nelle mani del governo. Il nuovo organismo di vigilanza è sul comodino di Presidente del Consiglio. Però detto questo, la realtà vera è che vediamo al di là di questa cosa di cui tutti hanno già scritto, ma Vediamo se davvero resta nel testo attuale. Il testo attuale butta a mare tutte le proposte che erano formali di Cottarelli di rigiustificazione o di riferimento concreto per di rigiustificazione delle società presenti o di acquisizione, apertura e fusione di nuove società pubbliche. Li butta a mare perché in realtà nell'articolo 4 attuale, in cui si danno definizioni che apparentemente possono sembrare restrittive, per cui alcuni hanno scritto bene 100.000 persone finiranno per strada, nella realtà non è così per niente. E quindi tutto dovrebbe restare assolutamente com'è, non solo rispetto alle norme in vigore dal 2007 oggi e non attuate, anche quelle della legge di stabilità 2015 sugli enti locali non sono state attuate, 2014 e 2015 non sono state attuate, si introduce la possibilità di una deroga generale con decreto della Presidenza del Consiglio a qualunque cosa sulla materia, a qualunque cosa. Allora vedremo com'è questo testo. Quello che ho letto io, mi sono trattenuto dicendo finché non c'è il testo evitiamo di sparargli contro. Quello che è evidente è che è stata avviata anche in quel caso una bella campagna sui giornali per dire temibile falce che si abbatterà sulle partecipate pubbliche. A leggerlo, comparato non solo con le proposte Cottarelli, ma sugli stessi testi approvati dal Parlamento che dovevano essere adottati e andati in vigore in questi anni, si capisce che siamo invece in un grande lavaggio pubblico della propria faccia, senza alcuna vergogna, perché tutto resterà così com'è. Tutto, tranne poche fesserie di scatole oramai vuote. Vedremo se non è così, speriamo che non sia così. Noi ce ne occupiamo sabato prossimo. Grazie Renato Cifarelli e cari compari, salutiamo tutti Mario. I nostri ascoltatori. Ciao da Carlo Alberto. Ciao Renato, ciao a tutti, continuate con la 24, appuntamento come alle 8:15 da lunedì mattina con Attenti a Noi Due con Alessandro Milano e poi pomeriggio alle 4:30.